Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Di cosa parleremo nella cronaca della giornata economico-finanziaria? È abbastanza scontato, delle reazioni e soprattutto delle prospettive sul fronte delle politiche economiche, oltre che dei mercati, dopo le dimissioni. A quel punto, visto il risultato, la doppia sconfitta, come l'abbiamo definita ieri sera, ieri notte, nella lunga diretta anche di Radio 24, sconfitta per la forchetta, quindi i 60-40 da un lato, e per la forte affluenza, per cui non c'è stata nemmeno la giustificazione di dire non abbiamo coinvolto il paese. No, il paese è stato coinvolto, e come, e ha votato in maniera netta e inequivocabile. Allora, come ho avuto modo di dire, adesso ovvio che ci sarà qualcuno che si sfoga in rete, gli sms sono 349-238-6666 e anche per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Come abbiamo avuto modo di dire, devo dire anche poco ascoltati, in tutte le settimane precedenti questo referendum, andate ad ascoltarvi le puntate, continuare a dire che il 5 sarebbe finito il mondo, che sarebbe cambiata la sorte della nostra economia nel breve, se vincevano i sì o se vincevano i no, era un ulteriore azzardo. Qualche tensione sui mercati la si poteva immaginare, ma non tanto per il voto sulla Costituzione quanto per le dimissioni, quindi per l'apertura di una crisi di governo, che adesso vedremo come si chiuderà. Questa sera 18:30 Consiglio dei Ministri, stando agli ultimi aggiornamenti, e poi Renzi salirà al Quirinale. È già salito al Quirinale oggi in mattinata, ha avuto già un incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella, salirà poi dopo il Consiglio dei Ministri a rassegnare le dimissioni, e a quel punto con ogni probabilità le dimissioni verranno accettate. Non si vede in questo momento la possibilità di che il Presidente della Repubblica dia a Renzi una seconda chance di esplorare la formazione di una nuova maggioranza di governo. Però abbiamo detto in maniera abbastanza inequivocabile che era sbagliato in ogni senso dare un'importanza a questo referendum sul fronte dell'economia a breve. Sui mercati un po' di tensione e speculazione ce la potevamo immaginare. Devo dire la verità, visto quello che è successo nell'ultimo mese, oggi anche una giornata relativamente tranquilla sulle borse, -0,45, occupiamoci di Milano, -0,45 Milano. Certo che Parigi fa +0,90, Francoforte +1,60, Londra +1,17, ma l'euro, che ieri in nottata sui mercati australiani e asiatici perdeva, era sceso a quota 1,05, è ritornato a quota 1,07. L'Eurogruppo, poi ne parleremo, oggi assente il ministro Padoan, doveva esaminare anche e soprattutto la manovra e quindi la legge di bilancio italiana, ha sostanzialmente rinviato a marzo, dicendo vedremo anche le correzioni apportate. Al di là dell'indice, è ovvio che oggi calino i titoli bancari, quello è il settore in questo momento sotto osservazione, ma lo era anche nelle settimane scorse, e i cali, per carità, ci sono e sono anche pesanti. Però, per correttezza, faccio notare che abbiamo visto in questi mesi cali altrettanto pesanti senza nemmeno una crisi di governo. Per cui, insomma. Allora, Popolare di Milano -8%, Banco Popolare -7,40%, Monte dei Paschi -6%, Mediobanca -4,30%, Unicredit -3,20%. Unicredit è arrivato a perdere ben di più. Parleremo di che cosa oggi? Declinando, diciamo, quello che è successo ieri sera sulle materie che ci appartengono, quindi economia e finanza. Intanto la posizione di Bruxelles, la posizione italiana, c'è oggi un editoriale di Guido Gentili sul Sole 24 Ore che dice attenzione che l'agenda economica resti prioritaria, non può attendere, e quindi capire al di là della formazione del nuovo governo le priorità dal punto di vista economico. Poi avremo, vedo che molti di voi già lo evocano, avremo l'uccellaccio Giulio Sapelli nella seconda ora del programma per un'analisi, diciamo, speriamo anche di maggior respiro, non solo sull'agenda dei prossimi giorni, e un commento invece sui titoli bancari, quello sì, perché Monte dei Paschi e gli advisor hanno rinviato, e poi ne parleremo, una decisione. Lì su Monte dei Paschi il problema è molto semplice, che era stato detto in maniera molto chiara e esplicita che in caso di crisi di governo il comitato, il gruppo, il consiglio che deve garantire l'eventuale inoptato, cioè la parte di aumento di capitale che non verrà sottoscritta, avrebbe potuto anche sciogliersi. Allora il tema è quello. Faccio notare però che Monte dei Paschi perde meno del Banco Popolare della Popolare di Milano su questo. Ancora sì, confermo che su Monte dei Paschi slitta di qualche giorno, almeno 3-4 giorni, la decisione delle banche, dei consorzi di garanzia, quello che appunto deve garantire l'aumento di capitale, sulla firma del contratto per l'avvio dell'aumento di capitale. Sul fronte Unicredit invece ha parlato il numero uno Mustier, e quindi ha detto sostanzialmente Gian Piero Mustier che il risultato del referendum non cambia i nostri piani. Unicredit vuole fare un aumento di capitale da quello che abbiamo capito almeno 13 miliardi, faccio notare che ne capitalizza 12, quindi è un aumento di capitale più alto del valore che in questo momento hai, ed è come numero assoluto altissimo, più delicato probabilmente quello del Monte dei Paschi, anzi sicuramente quello del Monte dei Paschi, da 4 miliardi, visto che un miliardo l'hanno già recuperato con la conversione dei subordinati, più pesante quello dell'Unicredit. Una cosa la posso dare per certa fin da ora, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, manderemo in onda, come abbiamo fatto da quando esistiamo, con Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, vado a memoria, le dichiarazioni del prossimo Presidente del Consiglio e del prossimo Ministro all'Economia, come abbiamo sempre fatto e come abbiamo fatto anche per Renzi. Quindi non vi preoccupate che sentirete la presenza in voce del prossimo Presidente del Consiglio e del prossimo Ministro all'Economia, oltre che Ministro allo Sviluppo Economico. Ancora, per quello che riguarda le banche, abbiamo un approfondimento apposito, non vi preoccupate su questo, ma ripeto, la situazione è pesante, l'8% è un calo forte, il 7% è un calo forte, il 6% è un calo forte, non sto minimizzando, sto solo dicendo per correttezza che se vi ricordate che cosa è successo in borsa da settembre ad ora, beh, insomma, non è la prima volta che commentiamo cali pesanti e senza neanche una crisi di governo. Allora, dunque, lei per mesi ha ripetuto che il sistema bancario era solidissimo. Io non ho mai detto che il sistema bancario era solidissimo. Abbiamo detto che in alcuni casi, e posso anche citare il titolo Intesa San Paolo, così siamo tutti tranquilli, il sistema bancario pagava in maniera, a mio avviso, ingiusta, e non solo mia, visti i criteri patrimoniali, pagava una sfiducia nei confronti del sistema bancario italiano nel suo complesso, che non andava nemmeno a distinguere tra banca e banca, matrice di tutto il Monte dei Paschi. Abbiamo commentato mille volte l'errore nel creare l'imbuto, il collo di bottiglia, nel rinviare tutto al 5, perché adesso ci becchiamo operazioni di fusione tra le popolari, penso alla vicenda Biper, ma non solo, UBI Biper. Vedo che Fabrizio Viola è in pole position per diventare il numero uno nuovo di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, Iorio dovrebbe andarsene, e già da domani la nomina dovrebbe essere posta all'attenzione del Consiglio, per cui è molto probabile che Fabrizio Viola, ex numero uno del Monte dei Paschi, mandato via, come abbiamo raccontato, dal Ministero dell'Economia e dall'ex Premier, soprattutto Renzi, per far posto a JP Morgan e a Morelli. Questo lo dice lo stesso Viola, non lo dico io, con cui ho avuto modo di parlare, non ha voluto rilasciare un'intervista, ma da più parti è stato scritto e detto, perché non è un mistero. Dicevo, Viola traghetterà e andrà al Popolare di Vicenza e Veneto Banca, per quello che come espressione del Fondo Atlante, chiaramente che le due banche se le è comprate. Il sistema bancario italiano è solido in molti punti, resta il vulnus, la debolezza del Monte dei Paschi di Siena, che può avere un effetto domino. Meno preoccupante, a mio avviso, Unicredit, ripeto, per quanto grossissimo sia l'aumento di capitale. Errore nel rinviare tutto al dopo referendum? Sì, a mio avviso è errore totale, ma l'avrei detto anche se avessero vinto i sì, perché l'abbiamo ripetuto per settimane. Così come abbiamo fatto notare per settimane la schizofrenia tra il dire non cambia nulla perché devi tranquillizzare i mercati, attenzione, l'Italia è un paese solido, cosa che il Ministro dell'Economia soprattutto negli ultimi tempi ripeteva, e però la tentazione molto forte e molto espressa da parte dell'ex Presidente del Consiglio di legare a un pericolo Italia, un pericolo mercati, l'esito del referendum. La prima era

che c'è qualche notizia, diciamo, positiva o relativamente positiva, non potrete dire che lo facciamo per tirar la volata al governo Renzi, visto che non c'è più. Magari lo potrete dire che lo faremo per tirar la volata al prossimo governo X. Le ipotesi oggi non le voglio commentare, anche perché siamo veramente alla speculazione. È chiaro che c'è chi dice Franceschini, il ministro Padoan per assicurare i mercati. Mi sembra veramente un toto non nomine, oggettivamente privo di un fondamento. Ecco, è arrivata la notizia che invece si è dimesso Francesco Iorio, l'amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza. Ha durato molto poco, devo dire, un anno, adesso vado a memoria, un annetto, un po' più di un anno, e si va appunto verso la Viola, verso la nomina di Viola, non la Viola, che vuol dire un'altra cosa, verso la nomina di Fabrizio Viola all'amministratore delegato della Pop Vicenza domani nel consiglio di amministrazione. Allora, iniziamo col nostro giro di approfondimenti. Partiamo da Europa, Italia, Roma, Bruxelles, e poi andremo invece anche sul fronte mercati e sul fronte Sapelli, che non so mai quando interviene Giulio Sapelli, l'uccellaccio, di che cosa si occupi. Si occuperà di quello che vuole lui, e come tutti gli uccellacci vola alto e non ci racconta prima quale sarà il suo taglio. Dicevo, doppio fronte, Eurogruppo e agenda economica del paese, non solo dell'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Si aspettava The Ark, tutto, ma... Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera, mitica. Buonasera. Oh, senti come sei pimpante. Ma che hai un rapporto diretto con Dijsselbloem. No, devo dire una cosa, fatemi fare la battuta, poi vado subito invece alle voci. Devo dire che a mio avviso ci avevo visto giusto che l'appoggio di Schäuble, anche di Obama, che non è che abbia portato tutta questa fortuna né a Cameron né alla Clinton, non voglio dire che Obama porti sfiga, ma ci andiamo vicino, né a Renzi, ma dico l'appoggio di Schäuble e del falco tedesco alle riforme di Renzi è stato un po' il bacio della morte. Detto questo, no, guardi, lo dico a chi scrive, così lo chiarisco, cioè non voglio far polemica, non c'è nessun trasformismo. Si prenda le puntate, siccome sono tutte in archivio, delle settimane prima e vado ad ascoltare se abbiamo mai detto che i mercati sarebbero crollati, che un po' avrebbero ballato, è ovvio, se sarebbe mai cambiato qualcosa a breve nell'economia. Abbiamo detto mille volte che era un errore legare il futuro a breve dell'economia di questo paese al referendum, errore del fronte del sì, in alcuni casi riproposto anche dal fronte del no, per cui guarda, proprio... E stiamo dicendo quanto a spread, non abbiamo mai fatto allarmismi sullo spread, ho detto 20 volte almeno in questi mesi che lo spread a 160-180 andava seguito, ma non era pericoloso e ben distante dai 300-330 di Monti, 500 di Berlusconi come punti. Per cui, guardi, il trasformismo non lo stiamo facendo, si ascolti le puntate, se poi lei vuole dirci questo, ce lo scrive, ce l'ha detto e ne prendiamo atto. Allora, il... portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas sull'Italia e soprattutto sulle banche dopo che chiaramente si è aperta la crisi di governo. The answer is no. We do not consider this happening. La mia risposta è no. Non consideriamo ciò che è successo una minaccia alla stabilità finanziaria dell'UE. Abbiamo visto volatilità sui mercati negli anni passati, ma oggi non è qualcosa che possa obbligare a un'evoluzione in questo senso, anche perché oggi le autorità sono preparate ad affrontare una tale situazione. Riteniamo che il referendum in Italia riguardasse il cambiamento della Costituzione e non fosse un voto sull'Europa. Siamo fiduciosi che le forze politiche e le istituzioni italiane daranno risposte convincenti. Pensiamo che il percorso delle riforme debba continuare e che l'onda riformista non sia terminata ieri sera. Siamo in contatto con le autorità italiane, ma non commentiamo su casi individuali. Ma non, non allons pas faire des commentaires sur des cas individuels. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che questa mattina scrive nella prima pagina quell'agenda economica che non può attendere. Buonasera anche a te, Guido. Buonasera. Restiamo però sulle reazioni europee. Oddio, qualcuno mi scrive: sei un po' nel pallone oggi, perché no, non mi sembra di essere nel pallone. Casomai, se dovessi esserlo, è perché vedere l'Hellas che si fa recuperare due gol mi fa girare le scatole. Questo sì, ma non c'entra nulla col tema della puntata. Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, la reazione dei mercati al referendum è una reazione calma. Questa volta devo dire che sono abbastanza d'accordo con Dijsselbloem. È un processo democratico e non cambia davvero la situazione economica in Italia o nelle banche italiane. I problemi che abbiamo oggi sono quelli di ieri e bisogna occuparsene. È un percorso che continua per quanto mi riguarda, quindi aspettiamo i risultati del processo politico. Quello che è emerso dal referendum di ieri riguarda una decisione politica su una particolare riforma della Costituzione. Le conseguenze per il governo dobbiamo ancora vederle e dobbiamo aspettare le decisioni del Presidente. L'Italia è un'economia solida, una delle più grandi della zona euro. È un paese con delle istituzioni forti e qualsiasi cosa accada avrà un governo futuro che dovrà affrontare la situazione economica. Certo, non sta a me né ad alcun politico europeo metter naso in questo processo. L'Italia è una democrazia stabile e prenderà le decisioni giuste. Finora i mercati hanno reagito in modo piuttosto calmo. Ripeto, è troppo presto per esprimersi, ma se questa resta la reazione, non mi pare che richieda misure d'emergenza. Allora, ancora una voce vi faccio sentire, Adriana e Guido, quella di Moscovici, il commissario degli affari economici Pier Moscovici, che entrando nell'Eurogruppo ha detto: siamo toccati dal referendum, Renzi per noi è stato un buon premier, ma non è uno psicodramma, non vi sarà la crisi dell'Unione Europea. E poi ha dato, possiamo definirlo endorsement, ha dato il suo appoggio a Piercarlo Padoan, ha detto: il ministro Padoan è un ottimo collega che ha mostrato una grande capacità di gestire le finanze pubbliche, ha dato una credibilità molto importante alla politica italiana per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche. Ultima risposta: ieri a Sky non ho detto che oggi sarebbero crollati i mercati, ho detto che c'è da attendersi che ballassero, e un po' hanno ballato, ma come cosa assolutamente da attendersi. Fine. Hanno ballato un po', alcuni titoli continuano a ballare, ma nulla di grave. Comunque, Moscovici: I'm confident that the Italian authorities have the means. Sono fiducioso sul fatto che le autorità italiane abbiano i mezzi e la capacità per affrontare questa situazione. L'Italia è un paese forte, affidabile. Il referendum non era sulla politica italiana, ma sulla Costituzione. Il signor Renzi è, anzi era, perché si dimetterà, un primo ministro forte che ha portato avanti riforme importanti, sia economiche, sia politiche, sia sociali. Ho fiducia sul fatto che l'Italia abbia i mezzi per affrontare la situazione. Non c'è da fare nessuno psicodramma. È stato un voto italiano su una questione interna. Certo, ci sono state conseguenze politiche importanti, ma non esageriamo e non trasformiamo questo voto in una crisi europea. Sono convinto che non ci saranno crisi in Europa e in ogni caso abbiamo i mezzi per resistere a qualunque tipo di shock. Siamo sempre stati comprensivi sul fatto che l'Italia ha affrontato la questione del terremoto, dei migranti, e non credo che la nostra posizione abbia giocato un ruolo nel voto. Non è un voto anti-UE. Piercarlo Padoan è un ottimo collega, non sarà con noi oggi, ma ha mostrato una grande capacità di gestire i conti pubblici. Ha dato una credibilità molto importante alla politica italiana per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche. Non sta a me scegliere, ma naturalmente è un uomo di alta qualità. Allora, Adriana Ceretelli, no, mi scrive un ascoltatore: ho votato sì, tifavo Clinton e sono interista, ma è una gioia. Ci dica anche dove vai in vacanza, così prendiamo le misure. Adriana, il fatto che l'Eurogruppo rinvii di fatto a marzo la valutazione sulla legge di stabilità, cos'è? È un non mettere sotto pressione l'Italia nell'attesa che il governo si crei con tempi rapidi? Era già previsto che di fatto il giudizio sarebbe stato rimandato a febbraio, quando sarà presentato il rapporto appunto sulla dinamica del debito, e che quindi dopo il rapporto di febbraio, in marzo, ci sarebbe stato il giudizio e, se volete, un po' il re d'azione, nel senso che a prescindere dal risultato elettorale referendario, insomma, si sapeva che l'Europa, cioè la Commissione, proponeva di darci subito la famosa stabilità su terremotati e migranti, circa 13 miliardi, ma che aveva delle perplessità esplicitate in modo chiarissimo sulle coperture della finanziaria 2017 e circa 5 miliardi che ballano, non si sa se si troveranno o non si troveranno, guardando appunto allo schema presentato a Bruxelles. Su questo si sapeva che il giudizio finale sarebbe stato rimandato all'anno prossimo, appunto dopo il rapporto sulla dinamica del debito. Quindi no, non c'è nulla di nuovo. Quello che c'è di nuovo, ma che per certi versi è prevedibile, è il fatto che tutti in coro oggi abbiano cercato di drammatizzare il voto referendario. Si posso dire, Adriana, che sul fatto che l'Italia ha strutture forti, eccetera, eccetera, che però le riforme vanno proseguite. E scusa, concludo. E soprattutto è stato ricordato che sul deficit strutturale, che è il grande problema appunto del giudizio della Commissione, l'Italia comunque dovrà in qualche modo rendere conto del fatto che avrebbe dovuto ridurlo dello 0,5 invece è aumentato dello 0,6. Quindi diciamo che drammatizzazione per i mercati, anche in parte per convinzione, perché nessuno ha interesse a far saltare o ballare troppo la terza economia dell'euro, però al tempo stesso senza dimenticare di mettere i vari distinguo e richiami all'ordine, insomma, questo mi sembra un po' l'approccio. Allora, dopo ti chiederò invece se non c'è anche un po' di paragurismo, mettiamola così, nell'Unione Europea. Perché lo dico? Perché è chiaro che questo è stato un voto, non abbiamo le proporzioni, non l'avremo mai, sicuramente contro la riforma, sicuramente però anche contro, viste le proporzioni del no, contro il governo Renzi, e molti lo leggono anche come in parte un voto anche contro l'Europa. Ora, a me ha fatto un po' specie, Adriana, vedere che tutti si preoccupano dell'Italia e giustamente della tenuta, è un grande paese, adesso aspettiamo risposte, collaboreremo con qualunque governo, la Merkel dispiaciuta per le dimissioni di Renzi, vabbè. Tutti hanno il terrore nell'analizzare, andare un po' più in maniera approfondita sull'analisi di questo voto, cioè è un altro voto, diciamolo tutto, possiamo dirlo, non anti-europeista, perché non mi permetterei mai, ma contro questa Europa almeno sì, visto che se ne avvantaggiano i partiti nettamente più critici verso questa Europa. Mi è sembrato che su quello invece si sia steso un velo pietoso. Ma ti faccio rispondere dopo, perché prima vorrei sentire da Guido Gentili un commento proprio su mercati Europa, poi arriviamo all'agenda economica. Guido. Sì, ha spiegato bene Adriana quando ha detto che ci sono circa 5 miliardi che ballano oggi nelle valutazioni tra il governo italiano e Bruxelles. Non è una cifra immensa, parliamo circa dello 0,3 punti del prodotto interno lordo. Io credo che insomma ci siano tutte le condizioni perché questo, soprattutto in questa fase, dopo il risultato di ieri, a maggior ragione, si dilunghi un po' nel tempo questa vicenda e che tutti prendano tempo. Nessuno ha interesse a mettere alle strette l'Italia, che è un paese che non è la Grecia, è un paese molto più grande, molto più importante, è un paese fondatore, insomma nessuno sarebbe così folle, secondo me, anche il più roccioso dei tecnocrati a voler mettere con le spalle al muro un paese come l'Italia. Quindi abituiamoci e possiamo prevedere che ci sarà poi alla fine un accordo. È certo che è evidente che quello che è successo ieri con il voto referendario comunque cambia il quadro politico italiano. Renzi è in uscita e quindi cambia anche l'interlocutore. Non a caso si mette le mani avanti e ovviamente da Bruxelles si fa notare che la possibilità del ministro Padoan sarebbe ben accetta, perché è molto conosciuto, è un economista che è stato a lungo anche al vertice dell'OCSE, è molto apprezzato in tutti gli ambienti internazionali e quindi è ritenuto un interlocutore credibile. Allora, dopo il metodo della pubblicità, vorrei sapere capire da Adriana Ceretelli appunto se qui c'è il convitato di pietra come nel Don Giovanni, cioè il tema di un voto di nuovo insomma, sicuramente non d'apprezzamento per questa Europa, non si deve nominare, non si deve evocare. E invece da Guido Gentili, se oggettivamente, andando un pochino anche all'analisi del voto per aree geografiche e geoeconomiche, noi abbiamo sempre saputo che c'era una forte preponderanza di no nei giovani e, diciamo, nelle regioni del centro-sud. A mio avviso, come dicevamo anche ieri sera in diretta, il dato anche delle regioni del centro-nord, e in particolar modo Lombardia, Veneto, Friuli e Piemonte, è obiettivamente eclatante, perché chi sperava che la riforma venisse capita dai ceti produttivi, e lì c'è maggiore... ci sono maggiori industrie, maggiori piccole e medie imprese, maggiore finanze, attività anche di export, ebbene è andato deluso, cioè il dato è molto molto basso anche, e non si possono invocare i grillini in questo caso, per favore, anche laddove ci si immaginava che venisse meglio compreso il quesito referendario, lo immaginavano i comitati per il sì. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Notte e giorno faticar, per chi non la sa gradir, pioggia e vento sopportar, mal dar male, mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Oh, così contenti tutti quelli che dicono che sono come le porelle nel Don Giovanni, ma parliamo del convitato di pietra Adriana Ceretelli, visto che siamo a pochi giorni dall'apertura anche della Scala. Un po' di opera ci stava. Non hanno voluto evocare questo voto, l'ennesima, diciamo, manifestazione di un voto contro questa Europa. È andata bene in Austria, ma sicuramente meno bene in Italia. Ma sicuramente una variabile europea di questo voto c'è anche stata, ma direi che in questo caso mi sembra che la variabile prevalente sia stata quella tutta italiana, diciamo, sia anti-riforma sia anti-Renzi. E non tanto per la sua politica europea, perché direi che nel caso specifico Renzi ha usato in campagna elettorale un linguaggio molto anti-europeo, si è scontrato più volte con le istituzioni e gli uomini dell'Europa, quindi credo che sotto questo aspetto si volesse in qualche modo tutelare. Detto questo, io quello che vorrei aggiungere rispetto a quello che ho detto prima è che è chiaro che l'Europa si preoccupa non perché ci voglia particolarmente bene, ma perché è nel suo interesse preoccuparsi della stabilità italiana. E d'altra parte che nonostante le dichiarazioni molto concilianti di oggi non intenda farci sconti, lo dicono due cose. Primo, il comunicato nel quale, appunto, come dicevo prima, richiama l'Italia al rispetto dei suoi impegni, se non immediatamente, perché voglio dire, realisticamente sarebbe impossibile, ma comunque il richiamo c'è, chiaro e netto, non ci richiamano niente. Ma la seconda cosa che è emersa dall'Eurogruppo è il no alla famosa proposta della Commissione europea per cercare di lanciare una politica più espansiva nella misura dello 0,5% del PIL da parte dei paesi che hanno i margini di manovra, al contrario di noi che invece dobbiamo risanare i conti in via prioritaria. Ecco, nel comunicato finale dell'Eurogruppo si dice che certo che ci potrà essere un rilancio dell'economia, ma questo dipenderà esclusivamente dalle scelte dei paesi che hanno i margini, cioè Olanda e Germania non intendono in nessun modo sottostare a questo tipo di inviti da parte della Commissione. Questo è un segnale, secondo me, che la dice lunga anche sul futuro prossimo venturo nostro dell'Italia in Europa, nel senso che sbaglieremmo a illuderci che siccome c'è un rischio di instabilità politica, siccome i mercati ci stanno addosso, l'Europa diciamo usa un pochino più la mano, non l'Europa, l'Eurogruppo, la zona euro, usa diciamo una mano un po' più leggera con noi. Al contrario, l'Europa ritiene che proprio perché ci sono questi problemi, i segnali che devono essere lanciati ai mercati sono dei segnali di prosecuzione delle riforme, risanamento dei conti, eccetera, eccetera. Dopodiché anche crescita, Sì. Però prima cosa stabilità, poi questa. In breve la linea sostanzialmente non cambia per ora. Allora, fino alle elezioni tedesche difficilmente potrà cambiare. E qui parliamo di dopo l'estate. Allora, molto importante nel ringraziare Adriana Ceretelli e Guido Gentili quanto ci ha appena ricordato, perché si ricollega anche a quanto tu scrivi questa mattina sul Sole 24 Ore. Intanto fatemi fare un inciso, viva Mario Draghi, perché se tutto quello che stiamo vedendo oggi sul mercato non ha le forme di un crollo, di un tonfo, è grazie anche, lo dobbiamo dire, allo scudo della Banca Centrale Europea. Però Adriana ci ha appena detto una cosa importante: non illudiamoci che siccome adesso l'Italia è più, diciamo, in una fase di transizione, deve andare a un governo di scopo per andare a elezioni, vedremo con quale legge elettorale, l'Europa ci tratti un po' meglio perché ha paura che l'Italia diventi ulteriormente un elemento di instabilità. Non avremo sconti. E questo si ricollega, Guido, con quanto tu scrivevi oggi sulla, al di là della rete di sicurezza di Mario Draghi, sulle necessità di andare avanti con un'agenda economica qualunque sia il governo. Beh, questo è evidente, perché lo spessore dei problemi con cui abbiamo a che fare purtroppo da molti anni non è che sia diminuito, e quindi dobbiamo insistere su questa strada, tanto più che anche la rete di sicurezza messa a punto dalla Banca Centrale Europea di Draghi non è che possiamo contarci all'infinito. Teniamo conto che a metà dicembre, ad esempio, ci sarà la riunione della Federal Reserve negli Stati Uniti, in cui si deciderà un po' su quello che sono le prospettive della Banca Centrale Americana, e non è escluso che ci sia un annuncio su un possibile aumento, certo, dei tassi di interesse. Questo ovviamente significa che potrebbe essere sul punto di chiudersi la stagione dei tassi zero, e questo a noi creerà un problema. Dà una boccata di ossigeno al sistema bancario, perché ovviamente gli ridà un pochino fiato in termini di redditività, ma ovviamente la politica monetaria ricomincia, come del resto è ovvio, perché non poteva durare all'infinito, a far salire i tassi di interesse, per noi, diciamo, crea un problema, si chiude una finestra, e a maggior ragione non dobbiamo essere in grado di poter incidere sui nostri problemi. Dopo il traffico, un'ultima domanda per te, e ripartendo da una cosa che scrivi oggi: così come il sì non sarebbe stato un passaporto per il paradiso, il no non è la condanna all'inferno, cosa che abbiamo cercato di dire in maniera, a mio avviso, abbastanza chiara in tutte queste settimane. Però adesso un ragionamento non solo sui nomi, ma anche e soprattutto sui tempi dell'apertura della crisi, cioè quando l'Italia dirà che avrà un esecutivo, ripeto, non me ne frega nulla di chi è e di chi potrà essere, né quale sarà la compagine governativa. Il problema è capire che questo sarà un esecutivo che andrà verso lo scopo di arrivare a una legge elettorale e le elezioni. Beh, i tempi non sono una variabile indipendente per la reazione dei mercati. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che hai mio padron mio, un catalogo. Allora, Guido Gentili, il catalogo non del Don Giovanni, ma delle ipotesi di un neo presidente del Consiglio, qual è? E i tempi? Allora, i tempi dovrebbero essere i più rapidi possibili, proprio perché, diciamo, l'attuale fase, diciamo, di incertezza che si è venuta a creare con il voto referendario non può, diciamo, durare a lungo, anzi deve essere, diciamo, riempita con un governo che sia autorevole, che sia componente, che sia competente per le materie che deve affrontare. Insomma, deve essere un governo nel pieno delle sue forze. Ora, i nomi: il primo che ovviamente si fa è possibile quello del ministro dell'economia Padoan, come dicevamo prima, perché è molto conosciuto, apprezzato all'estero. C'è però, secondo me, un problema che, diciamo, Padoan in persona, ancorché, diciamo, sia entrato ovviamente a fare politica, perché è uno dei più importanti ministri del governo Renzi, ma è un tecnico, è un non parlamentare, e all'ordine del giorno della prossima missione del governo, qualunque esso sia, c'è, come sappiamo, la legge elettorale. E quindi questo è uno di quei temi su cui potrebbero tornare le polemiche che abbiamo sempre conosciuto in Italia sui tecnici. In questo momento i tecnici non godono di buona stampa e di buona fama, e quindi mi sembra un'operazione comunque che ha delle sue complessità dal punto di vista politico. Non escluderei che il Presidente della Repubblica Mattarella chieda al Premier Renzi di arrivare almeno all'approvazione della legge elettorale, della legge di bilancio. Di bilancio, beh, questo sì, questo è chiaro, anch'io non lo escluderei. Però questo vuol dire poca roba, far arrivare a fine mese, Guido. Non è detto nemmeno che Renzi gli dica di sì, però, Questo lo capiremo dopo le 18.30, dopo il CDM, quindi verso 19.30, quando Renzi salirà al Quirinale e uscirà dal Quirinale e parlerà con i giornalisti. Grazie anche a Guido Gentili, ci risentiremo, Guido, mi sa, ho questo sospetto. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Questo quello per me pari sono a quant'altri d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre beltà. I wanna be free. Dal Rigoletto alla musica da discoteca, il passo è breve, brevissimo. Allora andiamo sui mercati, poi arriverà l'uccellaccio Sapelli dopo aver analizzato la risposta dell'Europa oggi, molto cauto, molto prudente, ma invito e risottolineo quanto diceva nella parte finale Adriana Ceretelli: attenzione, a maggior ragione adesso vi saranno meno sconti all'Italia, non più sconti all'Italia. E quindi sbaglia o sbaglierebbe chi si illudesse che per via della crisi di governo, della transizione, delle probabilissime elezioni, l'Europa potrebbe chiudere un occhio e essere più benevola con noi. Anzi, sosteneva Adriana Ceretelli, capiterà l'esatto contrario. Insomma, non c'è stato, lo ripeto per chi si fosse permesso qui in collegamento, a parte a metà seduta, non c'è stato un andamento dal punto di vista dell'indice preoccupante, meno 0,21, è vero che Parigi ha fatto più 1, Francoforte più 1,60, Londra più 0,20, il Dow Jones più 0,30%, però quante volte abbiamo visto Milano andare in maniera anche più diametralmente opposta rispetto alle altre borse europee. C'è stato invece sui titoli bancari, questo obiettivamente era da attendersi. Fiat Chrysler, adesso arrivo ai bancari, più 4,60, Buzzi Unicem più 4,40, Saipem più 3,90, come CNH Industrial, 3,70 lo guadagna Leonardo Finmeccanica, il 2,90 Prismian, il 2,70 il rialzo di ST Microelectronics, il 2,5 di Tenaris, il 2,20 di Azimut, Mediaset più 2 come Moncler. Andiamo ai bancari. Allora, devo dire che oggi il mercato però ha distinto, nel senso che Intesa San Paolo perde solo l'1%, Generali solo lo 0,90%, Unipol solo lo 0,60%, B per banca è praticamente invariata, meno 0,30%. Cedono al di là dei bancari anche Italgas meno 1,60%, Enel meno 2,20%, Atlantia meno 2,30%, Fineco Bank meno 2,50%, e qui andiamo invece più sui bancari, Snam più, meno 2,80%, e adesso arriva Telecom meno 3%. E adesso la pattuglia dei bancari, che invece hanno sofferto oggi. Unicredit meno 3,30, arrivata a perdere anche il 6, poi ha recuperato. Mustier, il numero 1, ha detto che non cambia nulla, loro vanno avanti con il loro progetto di aumento di capitale. Monte dei Paschi meno 4,20, anche sospesa a un certo momento, però meno 4,20. Mediobanca meno 4,20, Banco Popolare meno 7,40, Pop Milano meno 7,90%. Dunque, su Monte dei Paschi gli advisor hanno deciso di far slittare l'incontro sull'aumento di capitali, il consorzio di garanzia, e da qui vorrei partire con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E sappiamo che lì il consorzio di garanzia aveva detto prima del voto, beh, se ci fosse una crisi politica in Italia potremmo anche non esserci. Questo è un timore forte, perché quello è il consorzio che deve garantire l'inoptato, cioè la parte di aumento di capitale che non dovesse essere sottoscritta se la beccano loro. Partiamo da Monte dei Paschi e però andiamo anche sulle due banche popolare, Banco Popolare e Pop Milano, perché il calo più pesante, contrariamente alle previsioni, è su questi due titoli fondendi, diciamo, che hanno già varato la fusione. Sì, dunque, il Monte, come dicevi giustamente, la situazione è in stand-by, nel senso che il tema è la garanzia sull'aumento, quindi di fatto andare sul mercato con una rete. La settimana scorsa si è chiusa la conversione dei bond, è arrivato poco più di un miliardo, rimangono 4 miliardi da cercare sul mercato attraverso l'aumento. Tra le clausole a cui era appesa e rimane appesa la garanzia, c'è la situazione di mercato che inevitabilmente è collegata a quella politica. Dal punto di vista del governo, come vediamo, si naviga a vista. Il mercato non ha reagito comunque in modo, diciamo, scomposto, pertanto così si spiega la scelta di guadagnare qualche giorno. Da un lato è positiva, perché evidentemente uno spiraglio c'è. È anche vero che se però il piano A, e quindi la garanzia, l'investitore arabo, ricordiamo che il Qatar, il fondo sovrano del Qatar, in teoria è pronto a metterci un miliardo, ma di nuovo valgono le stesse cose diciamo prima. Dicevamo, se ci fossero state tutte le premesse per andare avanti con il piano A, si sarebbe fatto oggi. Evidentemente non ci sono. Quindi il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, poteva andare peggio, ma poteva andare anche molto meglio. Su Monte dei Paschi dici? Sì, sì, sì. Però devo dire, per onestà, abbiamo visto molte volte il Monte perdere anche di più senza nemmeno una crisi di governo e un voto come quello di ieri, per cui io sarei in questo caso, per un'analisi, un bicchiere un po' più mezzo pieno, cioè, per carità, meno 4,20 non fa piacere a nessuno. Ma ricordiamoci cosa è successo in questi mesi al Monte dei Paschi, sì, di Siena. È anche vero che ormai le azioni valgono talmente poco che sono un indicatore relativo dello stato di salute dell'operazione in generale. E allora chiudiamo invece su Banco Popolare e Pop Milano. Perché cali così pesanti su due banche? Un ascoltatore mi scrive: fondendi non si può sentire. Vabbè, che si stanno fondendo, che hanno già deliberato la fusione. Ma perché loro pagano ancora il prezzo della sentenza del Consiglio di Stato di venerdì, che di fatto ha riaperto la partita del recesso, cioè il diritto dei soci che hanno votato contro la fusione di vedersi rimborsato le azioni che avevano in mano. Banca e BPM avevano messo sul tavolo 200 milioni virtuali, cioè praticamente facendo capire che non li avrebbero mai rimborsati, potendo farlo. Il Consiglio di Stato ha congelato quel pezzo di norma che aveva aggiunto Banca d'Italia. Quindi Banco BPM potrebbero pagare la fusione 200 milioni in più e perdono più o meno quello in borsa. Allora andiamo coi migliori e peggiori della seduta. E allora, migliore Stefanelli più 14, Molmed più 7,90, Trevi più 7,70, Premuda più 7,20, Sintesi più 5,90, fronte opposto. Pop Milano e Banco Popolare sono le peggiori in assoluto, non solo tra i titoli maggiore capitalizzazione, poi Acotel Group meno 6, Landi Renzo meno 4, Mediobanca meno 4,20 come Monte dei Paschi di Siena. Confermo a chi me lo scrive che si è dimesso l'amministratore delegato del Banco Popolare di Vicenza, Francesco Iorio. Qualcuno mi scrive sulla buona uscita, non lo so, adesso non mi ricordo, un bel prezzo per l'ingresso. Non mi ricordo la poltrona scomoda, quella di Vicenza. Beh, insomma, pagata bene, posso dirlo. È molto ben pagata. Agli ex vertici, e ho già detto quello che potevo dire su Sorato e Zonin, quindi non mi voglio ripetere, ma anche quella di Iorio. Comunque si è dimesso Iorio e praticamente dato per certa l'arrivo di Fabrizio Viola, ex Monte dei Paschi, allontanato appunto con la telefonata di Padoan che per far posto a Morelli, l'operazione con JP Morgan, abbiamo parlato molte volte. E Fabrizio Viola domani, o meglio non lui, ma la nomina di Viola domani sarà nel Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza. Ormai insomma, viene data per certa la nomina. Grazie anche a Marco Ferrando. Andiamo sul traffico e poi l'uccellaccio che introdurremmo però questa volta non con i camion a Burana, ma viste le critiche anche di oggi al sottoscritto, con di nuovo un'aria del Don Giovanni Leporello. Traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Notte e giorno faticar, per chi non la sa gradir, pioggia e vento sopportar, mal normale, mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, non, non, non, non, non, non, non voglio più servir. Allora, Leporello che vi parla, viste le critiche di alcuni che hanno votato, immagino no, saluta il professor Giulio Sapelli. Oggi non le ho messo i Carmina Burana, so che si sente un po' orfano Sapelli. Ma però... io con lei vado sempre d'accordo. Va bene. Allora, musica meravigliosa. Io non so se lei sia il Don Giovanni, non penso di essere Leporello, però andiamo all'analisi di quello che è successo. Dicevamo prima con Adriana Ceretelli che insomma in tutte le dichiarazioni oggi dell'Europa che ha fatto, sì, non c'è stato un velo di autocritica, nessuno ha voluto leggere in questo voto, diciamo, un voto anche anti questa Europa. Però prima un suo commento sul voto e poi andiamo ai vari temi e ai fronti che si aprono. Sapete? Ma il mio commento è molto semplice: il popolo degli abissi si è alzato, è come farinata degli uberti, è apparso in tutta la sua sofferenza, grondante sangue, disoccupazione, figli che non lavorano, figli che stanno messi dai padri. Questo non c'entra niente alla Costituzione. Il fatto di aver personalizzato la questione ha fatto sì che fosse, e il popolo delle abissi l'ha capito, quello di cui non si parla nulla, è stato un voto di classe. I poveri hanno votato no. Basta, chiuso, finito. Basta vedere la carta geografica, chi ha votato sì? La Toscana e l'Emilia, dove a parte c'è un po' di vecchio compagnucci che votano sempre quello che gli dici, per senso chissà di che cosa, di partito, ma lì si sta meglio. Poi ha votato bene l'Alto Adige, Milano è città che sempre, voglio dire, pensa a se stessa, sta bene, ma poi a Venezia era arrivata fino a Lodi, perché loro non se ne occupano del mondo. Quindi un voto di classe, un voto di cleavage, si diceva una volta quando si faceva politica. Rockham. Rockham, bravo, si vede che hai fatto il Cesare Alfieri. Allora, in fronte, sì, ti bacerei in fronte. Sì, Sapelli, buono, perché guardi. Allora, non è tempo di unioni civili. Senta, una cosa però, lei dice che il voto nella sua distribuzione geografica, la sua analisi, sì, è marxista, non è una bestemmia. È un voto legato, diciamo, al reddito, al potere d'acquisto, alle difficoltà economiche. Però a noi ha sorpreso anche vedere come in alcune regioni, lei parlava di Milano, attenzione, Milano città, già la provincia. Milano città, vabbè, perché lì ci sono i ricchi, no? Ho capito, però lei non è rimasto sorpreso che, visto che l'appello del sì si rivolgeva all'Italia produttiva, non dico che avesse ragione, dico il pubblico di riferimento, all'Italia produttiva. Che Veneto, Friuli, anche il Trentino, non l'Alto Adige, ma anche il Trentino e anche altre regioni del nord abbiano avuto una proporzione tra sì e no identica, cioè 38 a 61. Cioè, la sensazione è che in regioni sicuramente produttive, sicuramente vocate all'export, così il messaggio non sia passato neanche lì, si può dare la colpa ai grillini che non hanno lì. Ma no, ma cosa c'entra i grillini? Ci sentono due cose. Tu non puoi schiaffeggiare con Confindustria, con Partigianato, con Commercio, perché sono colpi intermedi, chiudere le camere di commercio, mortificarle, e poi vuoi anche che ti votino. Certo, la Confindustria per problemi di buona relazione, i confindustriali sono sempre ministerialisti, come si diceva una volta, no? Deve fare il suo lavoro, deve avere rapporti con il governo, ma dopo che li hai schiaffeggiati, divisi, eccetera. E poi, a parte che c'è un capannone vuoto, uno sì e uno no, vuoi ancora che questi votino per te? Perché purtroppo l'errore è stato di non votare sulla Costituzione, ma per Renzi e per la politica di Renzi. Questo è stato un errore strategico. Perché? Perché Matteo Renzi, come avrebbe detto Pietro Nenni, sentatisien da bord, è uno che fa la politica come tattica, c'è la politique da bord, la pan strategie. Dice delle cose giuste sull'Europa, no all'austerity, ma poi non va avanti. E questo l'hanno bastonato. Il popolo delle abissi si è alzato e l'ha preso. Ok, e questa è la sua analisi. Sulla parte europea, se vuole, mi dia anche un commento. Io, ma la parte abbiamo fatto ascoltare. La Ceretelli è maestra in questa analisi qui. Chiaro che l'Europa adesso lo bastona. la tecnocrazia, che voglio dire, qui allora o la gente apre gli occhi, perché questi sono convinti che chiunque sia al governo, la politica economica deve essere sempre la stessa. Abbiamo finito una cambiale in bianco? Anzi, adesso dicono non c'è più il governo, ma la politica dovete farlo uguale. Ma allora ditemi un po' cos'è questa Europa. È una neoforma di dittatura poliarchica, ma è una dittatura. Mi ricorda molto il compagno Brezhnev a me, Juncker. È un'Unione Sovietica. Ma bisogna, spero che questo voto faccia aprire gli occhi alla gente. Senza bisogno che arrivi Grillo con le sue cose. E qui non è problema di populismo. Ecco, è di capire che questa cosa non va bene. La democrazia è calpestata, il Parlamento europeo non funziona. La prospettiva adesso, ripeto, 18:30, tra pochissimo dovrebbe iniziare il Consiglio dei Ministri, poi Renzi tornerà al Quirinale dove già era stato questa mattina per un'ora, e c'è chi dice Mattarella potrebbe chiedere di ritentare di formare una maggioranza di governo, almeno per portare a casa la legge di bilancio. Ma certo, perché Mattarella anzitutto è ordinario di diritto parlamentare, è un grande presidente, non è un principe come quello che avevamo prima, è un presidente e sa che ci sono le regole. Lui, Renzi, non può dimettersi quando gli pare, perché è incardinato dentro una funzione pubblica sacrale. Rappresenta la nazione, non il partito, con dei presidenti del Consiglio dei Ministri. Quindi Mattarella lo rimanderà alle Camere, verificherà se c'è una maggioranza. Se lui non ha la maggioranza, farà una serie di consultazioni, come si faceva quando c'era la democrazia parlamentare e non il napoletanismo, giusto? E si ritornerà all'ordine, grazie al professor Mattarella, presidente della Repubblica, di cui siamo fieri finalmente di averlo nuovamente un presidente della Repubblica. Beh, devo dire che quella fu una mossa sorpresa di Renzi, che gli costò anche, per dovere di cronaca, i rapporti con Berlusconi, col patto del Nazareno. Allora, andiamo avanti su questo, però. Intanto, se lei ha un'indicazione, Renzi porterà a casa la legge di bilancio, e poi si arriverà a che cosa, Sapelli? Secondo me un governo di scopo, cioè che deve trovare un accordo sulla legge elettorale e poi portare il paese a elezioni, e se sì, chi potrebbe guidarlo? Dai. Innanzitutto il Presidente della Repubblica cercherà di fare un governo, convocherà i gruppi parlamentari, come si diceva una volta. Ci sarà la sfilata delle persone che salgono al Quirinale, Mattarella alla sede, e come ha detto, come in un'antologia, quando ha ricevuto i ragazzi recentemente in una scuola, il Presidente della Repubblica non fa proclami, fa della moral suasion, è sommesso, grande, grande, e quindi sentirà tutti, vedrà se c'è la possibilità di una personalità o un insieme di partiti che hanno la maggioranza, farà così, se no sarà costretto a fare, come si diceva una volta, non un governo balneare, ma un governo natalizio che, come dice giustamente lei, che se ne intende, espliti tutti i doveri che dobbiamo fare, anche perché siamo nella gabbia d'acciaio dell'Europa, con la respirazione artificiale, e poi si andrà ad elezioni. Però ci va la fiducia, bisogna che il Parlamento ritorni a funzionare. E questo lo dobbiamo a Mattarella. A proposito di Parlamento che deve funzionare, di economia abbiamo parlato dalle 17:07, quindi basta, vorrei basta, insomma, è la politica, vorrei fare il programma anche domani, Sapelli, però una cosa, ieri abbiamo visto, abbiamo commentato in diretta lungo la lunga notte le varie reazioni, ovvio l'entusiasmo della Lega, di Salvini, di tutto il Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, quindi Brunetta. Una cosa la posso dire, visto che lei conosce bene anche certi esponenti del PD di una volta, insomma, ma l'entusiasmo di D'Alema, perché io capisco tutto, è la minoranza dentro, ma il tuo partito e il tuo segretario ha preso una sberla e una musata. Non era un entusiasmo eccessivo, ricordava a me un po' il marito cornuto che si taglia per ripicca, diciamo, gli zebedei. Non prendo queste sue metafore un po' ardite per me, ma dico solo che mi sembra incredibile che uno così, dovevano uscire dal partito allora, non mettersi adesso a fare queste polemiche interne. E poi in ogni caso voglio solo ricordare una cosa, il diritto di opposizione l'avranno quando si faranno l'autocritica su come hanno condotto l'euro e la politica di austerità, perché a mettere la cosa sul fiscal compact che ha distrutto il paese c'erano anche loro. Quindi li aspetto a Canossa, e poi avranno l'onore, avranno riconquistato l'onore di mettersi a capo dell'opposizione e di rifare un grande partito socialista, che è la cosa di cui questo paese ha bisogno, oltre che il ritorno alla democrazia parlamentare. Per quest'ultima cosa c'è Mattarella, ma poi bisogna che questi facciano l'autocritica, perché ci hanno ridotto in braghe di tela in una gabbia d'acciaio. Altro che prendersela adesso così, fare queste smorfiette. Ma dove eravate voi quando si facevano quelle cose orribili come votare all'unanimità il fiscal compact senza sapere cos'è l'ordo liberalismus? Ma per favore, dai. Quindi ha rotto anche con D'Alema lei? Ma io non ho mai rotto con nessuno, perché io non sono di nessuno, sono di me stesso e dello spirito. Si agisce nella storia. Quindi, insomma, non mi sembra particolarmente preoccupato, un po' anche lei, come i mercati oggi, no? Per chiudere. Ma no, ma si risolverà. Siamo un paese che per fortuna ha una Costituzione che funziona. Finalmente abbiamo di nuovo un presidente e non uno pseudo monarca. Abbiamo una persona che stila la Costituzione, che ha a cuore la comunità del paese. Abbiamo un'economia che, nonostante la crisi del sistema bancario, che è gravissima, però che ancora tiene. E poi abbiamo un sacco di brava gente, sia che abbia votato sì, sia che abbia votato no. Quindi diamo fiducia a questo paese, affidiamoci al Presidente della Repubblica e torniamo in Parlamento. La politica torna in Parlamento. Allora, oggi un uccellaccio, insomma, non dico buonista, ma quasi voli via col suo buonismo, grazie anche al docente di storia economica della Statale di Milano, Giulio Sapelli. Notte e giorno faticar per chi non la sa gradir, pioggia e vento sopportar, mandar male mal dormir. Voglio fare il gentil uomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.